605. Pane bolognese. Questo è un pane che farà onore alla classica cucina bolognese perché è gustoso a mangiarsi solo e atto a essere servito per inzupparlo in qualunque liquido. Farina di grano, grammi 500, zucchero a velo, grammi 180, burro, grammi 180, zebibbo, grammi 70. Pinoli tritati all'ingrosso, grammi 50, cedro candito a piccoli filetti, grammi 30, cremor di tartaro, grammi 8, bicarbonato, grammi 4, uova numero 2, latte decilitri 1. Mescolate lo zucchero con la farina e fatene un monte sulla spianatoia. Nella buca che gli farete, poneteci il burro, le uova e il latte. Ma questo tiepido con le due polveri, dentro le quali già vedrete che cominciano a fermentare. Impastate ogni cosa insieme e quando il pastone è divenuto omogeneo, apritelo per aggiungervi i pinoli, il candito e l'uva. Rimaneggiatelo onde queste cose vengano sparse ugualmente per formarne due pani a forma di spola. Alti poco più di un dito, dorateli col rosso d'uovo e cuoceteli subito al forno o anche al forno da campagna.